Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in your baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Oh, God, I love you so high. I pay you, hallelujah. I got faith. Fisco, il caos di leggi e decreti. In un anno 2000 pagine di nuove norme. La protesta delle aziende venete. Il Corriere della Sera. Fake news, lite PD 5 Stelle, Facebook, vigileremo, c'è una rete di propaganda anti-Dem, Di Maio dice anche noi vittime, così apre La Repubblica. E poi, oddio, questo è un super titolo. Secondo me questo è un super titolo. Oddio, si è ristretta la Leopolda, super flop, tutti mollano Renzi, la kermesse disertata da VIP e big del partito Il Giornale. Questo secondo me è un super titolo. Perché si è ristretta, si è ristretta. Pare che si sia ristretta. Buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica da Carlo Gabardini. Io cambio cuffia, intanto parla tu, perché questa è la cuffia sbagliata. Dico che la stampa titola falsità online e mi sembra un'ottima un'ottima idea per tradurre questo fake news che ormai imperversa su tutte le prime pagine e anche ovunque. Sono tornato. Quindi, con la falsità online, la pista dei siti che porta grillini e leghisti. Però, un rapporto informatico, hanno gli stessi codici. Il PD chiede ora una legge. Però la stampa fa anche una copertina. Fa una copertina molto bella con una foto satellitare dell'Euro, del Mediterraneo, dall'alto, si vede il mare, si vede l'Italia, si vede la Grecia, eccetera, eccetera. La nuova mappa del Mediterraneo. Tutto questo per dire che cosa? Che da giovedì fino a sabato a Roma, la settimana prossima, ci sarà il forum del Mediterraneo, ospitato appunto dall'Italia, con una serie di leader europei, internazionali, appunto anche del Mediterraneo, africani, per rilanciare insomma le sfide del Mediterraneo. E c'è un bel approfondimento della stampa su questo, con un pezzo di Gentiloni, fondo di, esatto, niente, un po' di meno, che il premier Paolo Gentiloni, che dice cose belle. Per l'Italia il rapporto con il Mediterraneo è irrinunciabile, non è solo la geografia a suggerirlo. Abbiamo 8.000 chilometri di coste che affiancano su questo mare, che affacciano su questo mare, dove sono fiorite civiltà, le tre grandi religioni monoteiste, attività culturali e commerciali straordinarie. Però sempre sulla stampa il piano di Macron per salvare le donne, la giornata dei diritti, poi l'altro fondo di Linda Laura Sabadini, la nostra festa per sconfiggere la violenza, insomma il tema della giornata contro la violenza sulle donne di ieri c'è su tutti i giornali. Anche il Corriere titola: multa a chi molestia le donne in molestia, ho detto? Sì. A chi molestia le donne in strada. Sì, non l'ho capito questo, che vuol dire? Perché se invece lo fai a casa niente multe. Niente questa multa. Roba di multe mi sembra molto brutto, perché multe significa che quindi se c'hai i soldi puoi farlo, cioè puoi molestare per strada, c'hai dei pezzi da 100 euro e paghi in giro, quindi non mi sembra una grandissima soluzione. Sono sempre tutti in cerca di soluzioni vendibili sul mercato politico, così vendibili rapidamente. Lo stesso Macron, che è stato eletto da poco, che non avrebbe bisogno di questa spinta elettoralistica, ma evidentemente tant'è. Ci sono però forse anche delle proposte concrete, realizzabili. Ve le leggo, pagina 2 del Corriere della Sera. Centri specializzati per le vittime, poi denuncia via web ogni momento. Praticamente su un portale si possono fare delle denunce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dover volersi presentare in commissariato. Parliamo di una proposta, non è ancora così, non è di Macron. Questo portatelo di Macron è in Francia, quindi non cercatelo in Italia, per, soprattutto neanche dopo, perché per ora si parla della Francia. Poi a lezione di parità già all'asilo, quindi un aspetto formativo, culturale, che partirà già in tenera età, anche questo sarebbe uno dei voleri del neo presidente francese. E poi c'è quello che dicevi tu, introdotto il delitto di oltraggio sessista per le molestie di strada, la prescrizione dei reati sessuali passerà da 20 a 30 anni. No, questa è una buona notizia. Io quello che dicevo, sì, che dare una multa, ovvero un corrispettivo economico per la molestia, tra l'altro vuoi sapere anche chi per l'oltraggio, per l'oltraggio, perché oltre al reato sulla donna c'è l'oltraggio, quindi diciamo al pubblico buon, come si dice, insomma, quella roba lì, al buon costume, a buon costume. Ma sarà per quello che i soldi vanno al comune, vanno allo Stato, quindi un paese con un sacco di donne molestate sarà un paese molto ricco. Comunque il Fatto Quotidiano invece apre su tutt'altro, siccome Berlusconi andrà da Fazio, apre con un titolone dicendo: caro Fazio, ricorda a B i tre processi per corruzione e l'accusa di strage. Siccome Berlusconi sta facendo un po' il giro delle sette chiese in televisione per cercare di far passare la teoria per cui tutto è perdonato, il Fatto Quotidiano ci tiene a ricordare a Fazio di fare le domande giuste. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci fermiamo, c'è il traffico, torniamo tra poco, vi diamo anche il primo indizio, perché cerchiamo un personaggio della settimana naturalmente e lo vogliamo indovinare insieme a voi. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come promesso, il primo indizio per giocare. Per il personaggio della settimana, come tutte le domeniche, noi cerchiamo un personaggio che abbia una notizia legata a questa settimana. E allora? E soprattutto legata a degli indizi che diamo. Ecco qua l'indizio. L'indizio è che il personaggio è inossidabile. Quindi pensate, agli ultimi sette giorni una notizia inossidabile: si vincono i biglietti per la mostra di Klimt allo splendido MUDEC di Milano. Poi oggi al numero verde vi vogliamo anche come controllori dei fatti, il fact checking degli ascoltatori di Radio 24. Oggi, se siete insegnanti di sostegno, se siete genitori di figli disabili, se conoscete questa realtà, se siete operatori soprattutto AEC, che cosa vuol dire questa sigla? Assistente educativo culturale. Ed è proprio la notizia da cui partiamo, perché in moltissimi comuni mancano i fondi per garantire questi operatori e quindi molti ragazzi disabili sono quasi abbandonati, costretti ad abbandonare la scuola perché l'insegnante di sostegno non è sufficiente. 800 24 00 24, se siete appunto insegnanti di sostegno o operatori AEC, oggi è la vostra giornata, la vostra puntata a Radio 24. Allora, torniamo sui giornali. A caccia di buone notizie, che è sempre difficile. La domenica ormai veniamo sempre prima qua in radio per studiare tutto, esatto, per trovare qualcosa. Io ce l'ho addirittura in una prima pagina. La prima, sì, pagina l'ho vista, di Repubblica è questa: Bruxelles per l'Africa, piano da 44 miliardi. Un super approfondimento di Repubblica che si lancia in questa anticipazione che riguarda il vertice di Abidjan in Costa d'Avorio, la vecchia capitale della Costa d'Avorio, che ospiterà presto 80 leader tra europei e africani. Faranno il punto sull'intervento dell'Europa in Africa. Si parte con 44 miliardi. Bruxelles prepara un progetto di sviluppo anche per fermare i flussi e il terrorismo. Al vertice di Abidjan ci sarà l'intesa politica. L'obiettivo finale è mobilitare 350 miliardi di euro. E insomma, l'Europa che si muove in aiuto dell'Africa anche come dire, con un retrogusto egoistico, perché sappiamo che tutto quello che accade in Africa ci riguarda. E insomma, dopo che si è mossa la Cina, e anche questo lo sappiamo, adesso si muove anche l'Europa, forse, vedremo, pare, sembra, si mormora. Queste sono le anticipazioni di Repubblica. In realtà, visto che noi stiamo sempre a scovare la parte buona di notizie che possono sembrare anche meno buone, in realtà tutta la questione delle fake news in questo momento è intrisa anche di buone notizie, perché Facebook ha detto vigileremo, e comunque c'è un'attenzione particolare nei confronti di notizie di molti siti che creano false notizie in area Movimento 5 Stelle e in area Lega, e il fatto di porre l'attenzione e dire per queste elezioni non si lascerà correre, ma si troverà un modo per far sì che le false notizie vengano bollate come false, in realtà è una buona notizia. Ma volete un esempio? Volete un esempio? Direte certo. Voi, perché area Movimento 5 Stelle? Perché area Lega? Non lo so, è un'inchiesta del New York Times che parla di i codici dei siti che producono queste notizie che sarebbero riconducibili a queste due aree politiche. Vi faccio però un esempio. Qualche giorno fa io l'avevo vista postata, rilanciata dal profilo di un elettore o simpatizzante grillino che aveva il simbolo del Movimento 5 Stelle nel profilo, ed era questo: la foto di Laura Boldrini, Maria Elena Boschi ed altri leader politici del PD allineati con aria seria. Guardate chi c'era al funerale di Totò Riina. Straordinario, visto che funerale non si è mai fatto, non esiste fatto il funerale. Non esiste quella foto lì, era in realtà il funerale di un'altra persona che non c'entrava nulla, e questa notizia è stata rilanciata ed è il classico esempio, esatto, di fake news. Purtroppo ci sono tante notizie che però non sono così, così bestiali, cioè possono sembrare vere, nel senso che bisogna essere veramente stupidi per credere che Boldrini è in company o chiunque sia andato a un funerale che non si è mai tenuto. L'altra, il caso principe delle fake news è Putin, che dopo i mondiali dice adesso che l'Italia ha perso i mondiali è il momento che cambi anche governo. Ovviamente non è mai avvenuta, sono immagini di Putin prima che noi pareggiassimo con la Svezia, e questo è un caso di gli attacchi a Renzi creati ad arte con false notizie. Libero: impariamo da Israele a scacciare gli africani, c'è un modo per respingere gli immigrati. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. È forse il titolo più schifoso, perché se leggi l'occhiello appena sotto, no. Senti qual è lo straordinario Netanyahu. Metodo che Libero chiede che l'Italia e tutti vadano a copiare. Netanyahu si prepara ad allontanare 40.000 profughi spedendoli in un paese a caso, all'estero. In un paese a caso. Nessuno che rispetta modo è? I trattati internazionali in base ai quali ci riempiono di rifugiati. Magari è un sistema di merda. No, magari... Oh, mi è scappato, chiedo scusa. La notizia sai qual è? La notizia sai qual è? È che... come ha fatto anche l'Australia, che ha pagato non so più quale paese vicino per prendersi degli immigrati, una politica che è costata però molto, dobbiamo dirlo, all'Australia, credo si calcola fino a 7 miliardi negli ultimi anni a questa parte, anche Israele paga l'Uganda e il Ruanda, che sono disposti a suon di migliaia di dollari ogni profugo a prendersi gli immigrati. Sì, ma che modo è, perdonami, che tipo di strategia può essere? Presuppone che tu sia molto ricco, se hai tutti quei soldi da pagare l'Uganda puoi tranquillamente organizzare gli immigrati nel tuo paese, perlomeno noi, forse Israele non li vuole perché appunto non li vuole, ma insomma poi vengono chiamati gli africani, insomma. Al di là della notizia, esatto. Io mi sarei limitato a non utilizzare la parola scacciare gli africani, amici di Libero, perché questo è un colpo basso, stupido, inutile. A me sembrava peggio, impariamo dagli israeliani, a dire la verità. Comunque anch'io una buona notizia, che però è una piccola storia, però una storia importante. In Val d'Aosta Tiziana Monterisa ha realizzato una casa 100% naturale, totalmente passiva. Una storia raccontata dalla Stampa, a pagina 20. È una casa che questo architetto ha costruito, ed è una casa che è calda d'inverno e fresca d'estate. È una bella storia che potete andarvi a leggere sulla Stampa, perché sennò adesso se la racconto tutta ci metto troppo. Allora, invece, la manovra economica in discussione è fonte di buone e di cattive notizie, ahimè. E allora noi vi leggiamo cosa scrive il Corriere: sia il bonus bebè via il super ticket sarebbero entrambe due notizie da classificare come buone notizie. Da un lato si discute della possibilità di estendere al 2018 il bonus per i neonati 960 euro l'anno, anche se vorrei trovare qualcuno che pianifica la nascita del figlio sulla base del bonus bebè, che un anno c'è e l'altro invece non c'è, quindi devi essere bravo, cioè, a beccare il momento giusto, la finestra giusta. In ogni caso si discute anche di abolire il super ticket sulla diagnostica e le prestazioni specialistiche introdotto in molte regioni d'Italia, e anche questa sarebbe una buona notizia. Ma noi che siamo Si Può Fare, cioè abbiamo la classifica delle 5 migliori buone notizie. Vai! Eccole qua, veloci come sempre e gustose come sempre. A Teano riapre il Teatro Romano nel Casertano. È uno degli edifici teatrali più importanti dell'Italia antica, uno dei luoghi più belli d'Italia, che è rimasto chiuso per tanti anni, finalmente torna a vivere. Al quarto posto andiamo a Treviso, corso anti-slot per i futuri baristi. Questo dovrebbe piacerti, Ale. A me sì, e per molto. Diventare baristi bisognerà anche seguire un corso di formazione contro la ludopatia. Hanno introdotto una serie di lezioni ad hoc all'interno del corso, che già c'è, di formazione obbligatoria per tutti gli aspiranti baristi, di modo che imparino a riconoscerlo. E ti dico brevissimamente, perdonami, anche una buona notizia, perché vorrebbero fare un bollino di qualità, che è una cosa che tu chiedi molto spesso per i pubblici esercizi che diranno no alle slot, di modo che anche da fuori si veda che quello è un locale non slot. Certo, perché in un bar, oltre a saper fare il caffè, ormai devi sapere anche, esatto, riconoscere se qualcuno ha bisogno di aiuto, un ludopatico, esatto, un ludopatico. Terzo posto, questa è una notizia veramente curiosa, però ci è sembrata gustosa. A sabato 2 dicembre a Rapallo si organizza un open day per la costruzione, rido, dei muretti a secco. I muretti a secco, bellissimo, sono quelli che salveranno il mondo, cioè già hanno salvato la Liguria. È una tecnica antichissima che deve essere tramandata, però è difficile fare questa tecnica costruttiva, e allora Rapallo la mettono a disposizione gratuitamente a tutti quelli che vogliono imparare a farlo. Sabato prossimo. Molto bello, se non avessimo da fare Si Può Fare, ci andremo anche noi. Invece al secondo posto, sempre sul podio, parchi a Milano, entro marzo 2018, quindi fra pochissimo, ci saranno 12.000 nuovi alberi, 12.500 per essere precisi, anzi per essere ancora più precisi 12.337, perché ci stanno tutte le piante, esattamente 98 alberi al Parco Forlanini, 50 al Parco Sieroterapico e così via. Non ve li elenco tutti, ma siamo molto contenti. Al primo posto abbiamo scelto questa notizia: il convegno internazionale dei cardiologi radunato a Roma ha stabilito la regola del 3, è facile, tenetela mente. Allora, basta camminare 3 volte alla settimana per 3,3 chilometri e farlo in 30, no, per 3 chilometri, ho esagerato con i 3, e farlo in 33 minuti, e questo è una ricetta salvavita. Bella, no? È stupenda. Purtroppo con la remoscia è, per me, anche uno scioglilingua. 3 chilometri ogni 3 giorni per 33 minuti. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, sono a Stoccolma in Svezia, anno 2023. Grandissima giornata oggi per questo paese, in realtà per tutta l'Europa. Perché? Perché oggi qui sparisce per sempre la carta moneta. I contanti non sono più accettati legalmente dal 90% dei negozianti, ma anche dei professionisti, che si affidano oggi a un nuovo sistema di pagamento che è nato proprio in quegli anni dove voi vivete, la blockchain, le criptovalute, che in realtà a sua volta si appoggiano a tecnologie come la biometrica, cioè la capacità di questi dispositivi, i nostri smartphone, di saper leggere l'iride piuttosto che le nostre impronte digitali. Insomma, oggi grazie alla tecnologia sparisce tutto quello che abbiamo visto svilupparsi nei secoli passati, in particolare la transazione economica attraverso dei pezzi di carta, che risale all'epoca ancora più antica. Ma la cosa bella, al di là della tecnologia, è che con questa innovazione arriva anche un'innovazione sociale. Sparisce tutto quello che è il nero, così lo chiamiamo in Italia, no? Tutte quelle transazioni non dichiarate. Ecco, oggi le aziende, il fisco, gli stessi commercianti e i produttori possono controllare tutti i flussi attraverso la blockchain e certificare che quel oggetto, piuttosto che quella transazione, sia o meno avvenuta. Questa è una rivoluzione copernicana per l'Europa. Spero, come sembra che sia, che anche l'Italia si allinei al più presto. Ci sentiamo presto. We'll be right back. può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Accade nuovamente, disabili lasciati senza assistenza, questa volta siamo a Cerveteri, ma la situazione ne siamo sicuri, anzi vi chiediamo ascoltatori all'800 24 00 24 di raccontarci quello che succede nelle vostre città, nelle vostre scuole, nei vostri comuni. Il comune di Cerveteri non ha fondi sufficienti per garantire operatori AEC, assistenti educativi e culturali, che a fianco degli insegnanti di sostegno dovrebbero garantire la possibilità per tutti, ma soprattutto senza di loro non è garantita, esatto. Perché quelli ufficiali, chiamiamoli, non coprono tutte le esigenze. È con noi il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. E anche Antonella Di Cola, buongiorno e benvenuta Antonella. Buongiorno. Grazie. Che è la mamma di Gianmaria, uno dei bambini che, per i quali manca la copertura e per i quali c'è questo problema. Cosa succede, Antonella, voglio cominciare proprio da lei, che cosa succede quando manca questa copertura per questo genere di assistenti dentro le scuole e che cosa capita a voi genitori e ai vostri figli? Allora, quest'anno ovviamente con i tagli che sono stati fatti a livello nazionale, perché è uscito fuori il problema a Cerveteri, ben detto, insomma il problema è nazionale, i bambini sono senza assistenza, per cui o vengono presi prima e portati dopo, o nel mio caso ad esempio io vado a scuola e garantisco il suo diritto allo studio stando lì per le 8 ore in cui non ha assistenza. Quindi andate, cioè, voi. Cioè ci sta lei, al posto di qualcuno. Esatto, sono io là al posto dell'assistente. Ma perché lei non, in questo caso non lavora, Antonella, ha la possibilità, esatto, di farlo, perché non è così. Però molti non ce l'hanno questa possibilità, immaginiamo. No, in realtà noi è stata una scelta quella di uno dei due, insomma, di rimanere a casa, di proprio per il bene del bambino. E però non può essere questa naturalmente la risposta. Ci sono tra l'altro altri tipi di disabilità per cui nessuna assistenza obbligatoria è garantita, perché ci sono disabilità più o meno gravi, però anche nel caso di disabilità meno gravi è comunque necessaria la presenza di questi operatori, altrimenti non si riesce ad andare a scuola. Esatto, è proprio la legge che deve cambiare, deve diventare un servizio obbligatorio, non può essere un servizio, lo diamo, non è obbligatorio. A seconda delle situazioni, alla carte, diciamo così, perché chiariamo anche questo aspetto, nella scuola dove va Gianmaria ci saranno, immagino, anche degli insegnanti di sostegno veri e propri. Sì, Giammini ha una per 22 ore, la cattedra piena. Però questo non basta a coprire tutte le esigenze, ecco che arriva il cosiddetto operatore AEC. Esatto, che è una figura comunque che va a supporto dell'insegnante di sostegno, e nel caso di Gianmaria ad esempio lo aiuta molto anche a livello fisico, perché comunque vive in carrozzina, però lo aiuta moltissimo anche nella didattica. Quello che può essere, insomma, l'aiuto del compitino, se non riesce, magari perché si stanca a scrivere, per cui arriva lei, è fondamentale per l'integrazione di Gianmaria all'interno della classe. Perfetto. Sindaco Pascucci, come funziona da questo punto di vista l'assistenza? Cioè, chi stabilisce quanti insegnanti di sostegno ci devono essere? Chi paga invece gli operatori A e C quando si rendono necessari per completare l'offerta e quindi per consentire a tutti i ragazzi disabili di andare a scuola? Allora, tanto buongiorno e grazie per aver acceso un riflettore su questo tema, perché noi lottiamo su questa vicenda dell'AEC da tanti anni e da qualche mese con un po' più di energia. Diciamo che non c'è stato un grande ascolto, voi siete tra quelli che stanno dando voce a una protesta che ha un'importanza enorme. Mi permetto prima di fare una piccola integrazione a quanto detto prima. Il problema dei genitori che vanno a scuola non è soltanto legato a chi può permetterselo o a chi fa il sacrificio di non andare a lavorare, è anche legato al fatto che loro non avrebbero titolo per stare lì dentro. Quindi possono trovare, tanto non è una loro competenza, secondo potrebbero trovare degli ostacoli burocratici, perché potrebbe esserci un dirigente scolastico che magari non gli consente di essere. Certo, non può essere mai quella la soluzione, insomma, esatto, può essere solo, cioè, come dire, un rimedio estremo. Non è che io, insomma, trovo un problema che non risolve un'altra persona e lo risolve il cittadino, insomma, no? Ecco, diciamo, quindi ognuno ha i suoi compiti. Il certo. problema di base ha due nature. Il primo è che la cattedra di sostegno è una cattedra che deve essere prevista, perché stiamo parlando di un certo tipo di disabilità che è riconosciuta da una legge, che è la legge 104, che ha due commi, il comma 1 e il comma C, e che prevede, diciamo, un tipo di assistenza in qualche modo obbligatoria. Dico in qualche modo perché non è tanto chiaro quanto debba essere obbligatoria. Negli ultimi anni è accaduto che il Ministero ha ridotto drasticamente le ore di sostegno, che è una spesa che fa il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi i comuni si sono trovati a usare l'AEC non come un'integrazione del sistema di sostegno, ma al posto di, quasi in sostituzione di. Ma al posto di, a questo è successo un altro fatto, che negli anni ci sono stati dei tagli devastanti ai comuni. Il nostro comune ha avuto dei tagli per qualche milione di euro, un comune che ha un bilancio di circa 25 milioni di euro, quindi se in tre anni gli vengono tolti 3 milioni di euro, gli viene tolto il 10%. Certo. Sindaco, quanti operatori AEC, di quanti operatori avreste bisogno nel comune di Cerveteri per soddisfare tutte le richieste? Lo faccio con i soldi, che è più facile, perché quanti operatori è difficile dirlo, perché c'è una procedura per decidere le ore più complessa. Lei consideri che 2 anni fa, ero sindaco io, quindi non è cambiata la città, io investivo a Cerveteri oltre 600.000 euro su questo servizio. Lo scorso anno siamo scesi a 400, quest'anno siamo intorno ai 250, quindi significa meno che della metà. In 3 anni abbiamo quasi ridotto a un terzo, ma non sono diminuiti i bambini, tutt'altro. Cerveteri è una città che cresce demograficamente, quindi statisticamente probabilmente quest'anno avremo più casi da seguire che 2 anni fa. Ma le voglio fare un'altra precisazione: noi 2 anni fa davamo l'AEC a dei bambini che non avevano la 104, perché come ha detto bene lei prima, ci sono alcuni disturbi dell'apprendimento, immaginiamo ad esempio una forte dislessia, in cui l'operatore AEC è molto utile, anche se la legge non prevede che gli vada dato. Ora, è ovvio che quando ci sono i tagli, i primi che saltano sono quelli, proprio i bambini che non hanno la 104. Certo, che però in realtà ne hanno bisogno e come, anche se non hanno la 104. Lei immagini, insomma, anche per comprensione, diciamo, di tutti, un bambino dislessico, quanto per lui può essere importante avere un operatore che lo assiste, diciamo, per fare i compiti. Molto, certo. Magari più di altre casistiche. Eppure quel bambino, non avendo magari la 104, non ne ha diritto. Noi riuscivamo a garantire il servizio anche a loro. Io però, sindaco, da un lato le chiederemo se si può mettere la mano sul cuore e tirar su da questi 250.000 euro, tornare, non dico ai 600 che erano quando non avevate avuto Italia e Comune. In realtà noi l'abbiamo già fatto, nel senso che come tutti gli anni, perché poi i sindaci si inventano i miracoli, a dicembre, come tutti gli anni, quando finisce l'anno finanziario, riusciamo a raschiare il barile e riusciamo, tanto che quest'anno riporteremo il servizio alle stesse cifre dell'anno scorso. Mi raccomando, raschiate, però raschiate il più possibile. Il problema è che lei giustamente fa questo discorso molto saggio, ma chissà, magari ci sono un sacco di altri sindaci che invece hanno altre priorità, quindi secondo me... No, questo non ci credo. No, ma dico, non si può delegarlo semplicemente, credo, esatto, al sindaco, esatto, questa questione. Esatto, devono avere due fatti. La prima cosa è che a livello nazionale si deve riconoscere che se il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione, esatto, non ci possono non essere i soldi per farlo. Esattamente. Lei pensi che io nella mia città posso non pagare la EC, ma sono costretto a pagare le bollette della luce. Allora io penso che preferisco avere una città in cui non pago le bollette della luce e pago la EC, ma non posso allora, farlo. Certo. Siccome le lancette dell'orologio corrono, e io voglio arrivare anche a questo, alla proposta che lei in qualche modo ha già anticipato, cioè parlando di obbligatorietà dell'AEC, lei fa una proposta... che dica che l'AEC è quello che in termini tecnici si definisce un LIVEAS, cioè un livello di assistenza essenziale. Per cui non se ne può fare a meno. Se diventasse così, a quel punto nessun comune potrebbe più diciamo, aggirare questa questione. Bisognerebbe necessariamente finanziare gli AEC. Serve un secondo fatto però, sì? Che le regioni e lo Stato capiscano che laddove il comune non ha la forza economica per farlo, perché magari ha una popolazione più numerosa di altri o cose di questo tipo, vadano a intervenire economicamente, perché in realtà noi non avremmo bisogno di leggi. Nella Costituzione c'è scritto tutto, che l'AEC è obbligatorio anche se non c'è una legge, c'è scritto nella Costituzione. Basterebbe che il comune e i comuni ricevessero le risorse necessarie per garantire questi servizi essenziali laddove non ce la fanno. Io vorrei chiudere sentendo ancora un attimo la signora Di Cola, Antonella, la mamma di Gian Maria, 7 anni, di che cosa, che patologia ha suo figlio, di che disabilità soffre suo figlio Antonella? Gian Maria ha l'asma, atrofia muscolare spinale, che è una malattia degenerativa rara che viene colpisce tutti i muscoli del corpo, tra cui quelli della respirazione, per cui anche durante il pasto va comunque supportato un po' nell'aiuto di tagliare le cose molto piccole, ma anche di controllare che vengano sempre ingerite molto piccole. Vive la sua vita in carrozzina, ha una debolezza totale, insomma, sia del corpo che dei muscoli della respirazione. E io vorrei che proprio lei, Antonella, se vuole, lasciarci con un messaggio agli altri genitori che magari possono essere all'ascolto, visto che voi avete trovato la forza, il modo, anche col sindaco, insomma, di lavorare su questa questione e di cercare delle soluzioni, almeno per quanto riguarda la possibilità che questi bambini e questi ragazzi possano frequentare la scuola. Vuol dire qualcosa a chi ci sta ascoltando? Sì. Innanzitutto volevo dire agli altri genitori di uscire fuori e di... perché qui è uscito fuori solo Cerveteri, in realtà veramente il problema è nazionale. Spesso mi chiedo come mai, insomma, tutto il caso è uscito a Cerveteri, non è un caso di Cerveteri. Io sento anche molte altre famiglie SMA che ci sono in Italia, il problema è nazionale, per cui insomma di uscire fuori e di dare una voce a questo problema che ritengo gravissimo, perché come detto già anche da Alessio, la Costituzione già lo dice, l'articolo 3, abbiamo gli stessi diritti e non è giusto neanche che dobbiamo lottare per avere il diritto allo studio dei nostri figli, per cui di unirci tutte le famiglie per far sì veramente che venga fatta questa proposta di legge e che cambiano le cose, insomma, questo. Vogliamo solo avere una vita come tutti gli altri nel limite del possibile, insomma, certo. Almeno a scuola. Almeno a scuola, almeno a scuola. Esatto. Le difficoltà purtroppo non mancano, almeno che la possibilità di frequentare la scuola sia garantita. E questa, a quello che riusciamo a capire noi, è l'unica soluzione. O si rendono obbligatori questi livelli di assistenza, oppure davvero tutti i sindaci devono trovare il modo di finanziarli. Però una legge probabilmente potrebbe aiutarli. Noi vi ringraziamo per averci raccontato questa storia. Alessio Pascucci, sindaco, Antonella Di Cola, mamma di Gian Maria, grazie. Buona domenica, grazie per mille. Essere stati con noi. Ascoltatori, all'800 24 00 24, come sempre vi nominiamo controllori dei fatti, raccontateci, soprattutto se siete insegnanti di sostegno o proprio operatori delle cooperative sociali che operano nell'ambito dell'educazione e dell'assistenza per i disabili, se ci volete raccontare, illuminare il vostro angolo di realtà, se davvero è difficile, è così difficile operare in questo settore, insomma, se mancano i fondi, che cosa succede nelle vostre scuole e nelle vostre città. E cerchiamo anche un personaggio della settimana che è inossidabile. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. allora, proprio nelle settimane in cui si è sofferto per l'eliminazione della nazionale maggiore di calcio dai mondiali, certo, noi abbiamo una buona notizia, perché almeno loro ce l'hanno fatta a qualificarsi, la nazionale di calcio degli amputati. E noi ci spostiamo volentierissimo, anche perché loro giocheranno il mondiale nel 2018 e quindi saremo tutti per loro. E sono dei veri eroi, basta guardare le immagini, basta seguirle, vedere una volta una partita, credo. È con noi Francesco Messori, capitano, ma soprattutto fondatore della nazionale di calcio degli amputati. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché sei stato praticamente tu a far nascere il movimento in Italia, forse il movimento no, ma la nazionale sì. Sì, ecco, io avevo questa voglia di confrontarmi con ragazzi come me, e allora ho lanciato un appello sui social, su Facebook. Quanto tempo fa questo? Nel 2011. E l'appello è andato a buon fine. Esatto, e quindi pian piano la squadra si è formata. Fatti venire altre voglie, mi verrebbe da dire, perché avevi voglia di confrontarti con altri, quindi hai lanciato un appello e adesso c'è una nazionale che va a giocare i campionati del mondo, quindi innanzitutto vogliamo farti complimenti. Se ti vengono delle altre belle idee, noi esatto, ci siamo. Noi ci eh? Siamo, scusami, noi ci siamo. Ti ho interrotto, vai avanti. Come è andata però in Turchia? Raccontiamo com'è andata in Turchia. Turchia, vabbè, a parte che è stata un'esperienza fantastica, noi non pensavamo mai di arrivare quinti su 12. Il nostro obiettivo semplice era quello di qualificarci tra le prime 8, perché questo comunque ci dava la possibilità di andare al mondiale dell'anno prossimo, l'anno seguente. E invece no, siamo arrivati quinti. Quindi ce l'avete strafatta. Quanto ti alleni per ottenere questi risultati? Allora, prima dell'europeo io e alcuni miei compagni siamo stati su a Livigno per un mese di preparazione, e quindi tornati dall'europeo ci siamo un po' lasciati andare in questo periodo. Adesso dobbiamo riniziare a fare sul serio, anche se il mondiale sarà a fine dell'anno prossimo. Ma senti, c'è la Svezia in questo mondiale? No, la Svezia non c'è. Peccato, ci sarebbe stata. Volevamo la rivincita e chiedervela a voi. Sarebbe stato bello. Facciamo un appello in Svezia che si muovano, così possiamo conquistarcela questa rivincita. Francesco Messori, capitano delle Stampelle Azzurre, grazie per essere stato con noi. Complimenti. Grazie mille. E va bene. Stampelle è la parola giustissima, perché sono le stampelle della nazionale maggiore, direi, visto esatto. Che quella non ce la fa. Noi vi aspettiamo tra poco dopo il GR, cerchiamo un personaggio della settimana. Ve lo ricordo, è inossidabile. A tra poco. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Multe proporzionali al reddito, sanzioni di 25.000 euro per la donna più ricca di Norvegia. Questa è una notizia apparsa in settimana. È accaduto che questa signora, che è appunto la donna più ricca di Norvegia, è stata colta in flagrante mentre guidava con un tasso etilico troppo alto, tra l'altro. Troppo alto, spero, se no è accanimento perché era ricca. No, le hanno fatto la multa, e le hanno fatto una multa però salata pari a 25.000 euro, e la motivazione motivazione è stata proprio questa, che nella sanzione ci deve essere anche un disincentivo al comportamento scorretto. E allora chissà se questo precedente possa diventare regola in Norvegia. Mi sembra una notizia interessante di questa settimana. Io ho sempre pensato che insomma la multa in proporzione al reddito non sia un'idea così folle. È una vecchia questione, quella delle multe in proporzione al reddito. Il vero problema è che siccome uno già paga le tasse in riferimento al proprio reddito, non è che può pagare tutto due volte. Già uno che ha un reddito più alto paga più tasse, se poi paga di più anche tutti i servizi, cioè o uno o l'altro, o si pagano le tasse tutti uguali e quindi che ne so, come negli Stati Uniti che gli scaglioni sono due, se non ricordo male, oppure se si pagano le tasse già proporzionali, poi le multe devono essere uguali per tutti. Vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana che è inossidabile, eh? 800 24 00 24. Ma un'altra notizia dal Binen in Svizzera, un villaggio che offre 25.000 euro. Sempre 25.000 euro però, sì, queste notizie. Cioè praticamente trasferiscono la multa della signora norvegese. No, in realtà è una storia interessante di cui abbiamo già parlato, non di questa storia, però la questione della desertificazione di paesi, di villaggi piccolini che perdono abitanti. Questo ha 248 abitanti. Recentemente tre famiglie hanno lasciato il villaggio e quindi hanno perso 8 alunni e a quel punto si prospetta la chiusura della scuola locale. Parliamo di questo perché spesso anche quando si parla di immigrazione è esattamente questo la questione. Quando si dice forse non è vero che ci fanno così tanto male, è perché spesso non avendo i nostri bambini, quindi non si chiudono le scuole perché ci sono altri bambini. Poi in realtà 60.000 euro per una famiglia di 4 persone. Esatto, perché danno 10.000 per i bambini e fanno i conti, però ovviamente ci sono delle regole. Bisogna promettere di vivere lì per almeno 10 anni, bisogna avere meno di 45 anni e la casa acquistata o costruita deve valere almeno 200.000 franchi, che sono circa 170.000 euro. Ma anche giurare sulla costituzione di Albinen? No, però deve essere quella la tua residenza principale. Ovviamente non è che può essere la tua casa vacanza e poi ti pigli 60.000 euro. Giuseppe da Ragusa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buona domenica. Allora, per me il personaggio è Renzi. Lo vedo continuamente attivo, va in giro per la sua chiaramente campagna elettorale e non mi sembra soffra molto della sconfitta in Sicilia. Solo tu lo vedi attivo però, eh? Cioè io lo vedo un po' abbacchiato sinceramente, anche alla Leopolda c'è un tono molto più dimesso che in passato. Recita la parte del dimesso e invece è attivo. Va bene, Giuseppe, d'altra parte il personaggio è attivo per natura, inevitabilmente, indubitabilmente. Non è lui però il personaggio inossidabile. Anche se le notizie su di lui ce n'è veramente una valanga questa settimana, però non è quello che avevamo scelto. Grazie Giuseppe, ne cerchiamo un altro quindi di personaggio. Tra poco vi daremo un secondo indizio. Nel frattempo, se volete, continuate a chiamare all'800 24 00 24 alla ricerca di un personaggio degli ultimi 7 giorni che ha una notizia che lo riguarda e che in qualche modo è inossidabile. E poi questa mattina vi vorremo anche come controllori dei fatti, il fact checking di Radio 24. Il sabato e la domenica mattina lo facciamo così, vi chiediamo di farvi protagonisti se siete insegnanti di sostegno o ad operatori A e C, sono gli operatori assistenti educativi e culturali che nelle scuole aiutano l'insegnante di sostegno a portare a termine la giornata scolastica dei ragazzi disabili. Chiamateci, di cui abbiamo appena parlato, perché a Cerveteri c'è un allarme, mancano i fondi per questi operatori, ma la stessa cosa immaginiamo accadrà anche altrove. Vorremmo che ci illuminaste così questo angolo di realtà nelle vostre città, nei vostri comuni, nelle vostre scuole. E a proposito di scuole, siccome la domenica non si va a scuola, ma noi facciamo ripasso comunque con la scuola buona del maestro Alex Corlazzoli, che ci riporta sui banchi di scuola e ci racconta cosa accade di bello, in particolare nelle scuole italiane. Ciao Carlo, la scuola buona di questa settimana la andiamo ad incontrare al liceo classico Telesio di Cosenza, dove, attenzione, proposta rivoluzionaria del preside del collegio docenti, i genitori, mamma e papà non devono più fare la fila a scuola per incontrare gli insegnanti per i famosi colloqui. Proprio adesso che è tempo di colloqui, ne parliamo, il mese di novembre è il tempo giusto per parlarne. Qui hanno inventato i colloqui via Skype. Eh sì, d'ora in poi i genitori possono prenotare in qualche modo sul sito della scuola, sul registro elettronico, il colloquio via Skype, e a qualsiasi ora, basta concordarla con il professore, possono in qualche modo incontrarlo. E in questo modo, grazie alla tecnologia e all'innovazione, abbiamo anche aiutato i genitori ad abbattere un po' i tempi e in qualche modo ad attrezzarsi per incontrare magari sempre più i loro insegnanti. Un esperimento, devo dire, che veramente si può fare, e si può fare davvero dappertutto. Basta una buona connessione. È arrivato il momento di darvelo. Il secondo indizio. Quindi noi cerchiamo un personaggio inossidabile, ma soprattutto il personaggio. In realtà sono due, è una coppia. 800 24 00 24. Ci fermiamo però per il traffico. A tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 1, 2, 3, 4. Get on up, get on up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Allora, ecco noi Cecilia Strada, buongiorno e buona domenica. Buongiorno a voi. Buongiorno. Cecilia Strada, membro del consiglio direttivo di Emergency, autrice del libro La guerra tra noi, un libro di Rizzoli, un libro sulla una riflessione sulla sicurezza e la paura, queste due parole, questi due temi forti del nostro tempo. Cecilia, cose che Emergency conosce bene e che tu hai visto anche da vicino, un libro sulla guerra che parte dal momento in cui nel 2001 sono iniziate una serie di guerre per cercare più sicurezza dopo le torri gemelle, cercare più sicurezza, però rimanere sempre invischiati nella paura. Una serie di immagini questo libro: l'Iraq, l'Afghanistan, i feriti, i civili, le armi, le mine, ma anche le basi militari, gli attentati, l'immigrazione. E anche il G8 di Genova. G8, scusami. Di Genova, Lampedusa, tante cose. Personalmente non sono un lettore di tutti i saggi che escono nel mondo, però è la prima volta che vedo mettere insieme con questa nitidezza, naturalezza, tutte queste angoli diversi del mondo, come se fossero legati da un filo, che c'è un filo che lega tutte queste situazioni. Qual è se c'è questo filo che tu hai visto? Sì, la mia impressione è proprio questa, che siamo in qualche modo tutti collegati. E per me è stato un viaggio all'indietro, perché io quando ho cominciato a girare per zone di guerra, la mia prima guerra l'ho vista in Pakistan quando ero proprio una bambina, ma poi da quando c'è Emergency ho girato da adulta, diciamo da giovane adulta, ho girato tante zone di guerra e mi sembrava di andare sempre più lontano. In realtà mi trovavo sempre più vicino, non solo perché la guerra si avvicinava alle nostre frontiere, ma perché la guerra, nella guerra cominciamo a vedere quanto fossimo tutti parte di un sistema, anche quando le guerre sembravano lontanissime. Quando ero bambina l'Afghanistan era un paese lontanissimo che non poteva centrare di meno con noi. Oggi l'Afghanistan è un paese in cui l'Italia è impegnata in guerra da 15 anni, in cui i cittadini italiani hanno speso 7 miliardi di euro per fare la guerra, e quindi l'Afghanistan ci riguarda. E cercare di guardare un po' al sistema che ci coinvolge tutti, che ci lega tutti, per cui mi trovo poi in Sudan a chiacchierare con un ragazzo yemenita, a parlare del suo paese che viene bombardato, a sapere, perché lo so, che le bombe che vengono sganciate sullo Yemen vengono prodotte in Italia, in Sardegna, partono dal mio paese per fare un lungo giro e poi andare a cadere sul paese di Qatada. Ecco, prendere le misure di questo sistema davvero imponente per me è stata una brutta notizia, perché dici, è veramente imponente, che cosa posso fare io davanti a si resta impotenti, perché sembra la più grossa macchina al mondo, certo, questa della guerra. Sembra la più grossa macchina al mondo, ma in realtà vedere che siamo tutti collegati, anche noi cittadini con le nostre scelte, di voto, per esempio, con o volenti o nolenti con le nostre tasse, in realtà vedere che è un sistema che ci coinvolge tutti è anche una buona notizia, perché ci sarà ben un punto debole di questo sistema, cioè sicuramente il punto debole, per come la vedo io, è sempre, per fortuna, è sempre l'essere umano. È sempre l'essere umano che può decidere di prendersi un pezzo di responsabilità, di smontare un pezzo di ingranaggio del sistema, che sia un pezzo di paura o di diritti, o quello che è anche una buona notizia. Riprendersi, è vero che sia anche una buona notizia. Questa cosa che stai dicendo mi sembra molto giusta e anche molto utile, perché la riporta a noi, cioè il fatto che è anche fatto di nostre scelte. Giustamente, scoprire che molte bombe poi vengono dall'Italia, allora uno può anche scegliere di non andare lì a lavorare. Le scelte che facciamo nei supermercati quando compriamo dei prodotti, o anche per esempio e anche scegliere... quando votiamo, giustamente, come stavi ricordando, o anche per esempio scegliere le parole, perché a un certo punto tu all'inizio del libro dici dobbiamo riprenderci le parole, e in effetti sarà banale, però quando abbiamo iniziato a chiamare guerra missione di pace, oppure l'uccisione di civili, un danno collaterale, perché queste espressioni sono state e sono utilizzate. Sì, come la guerra umanitaria, i bombardamenti chirurgici, bisogna sempre fare uno sforzo di propaganda per convincere la gente a fare la guerra, i cittadini a fare la guerra, perché i cittadini, ragazzi, sono quelli che pagano il conto della guerra, sempre, non solo nei paesi lontani, ma anche qua. L'ultimo caso che citi è quello che riguarda, per esempio, i droni, l'utilizzo dei droni, che può sembrare una cosa tecnologica, quindi la famosa guerra pulita, la guerra chirurgica, eccetera, eccetera. No, invece è una cosa che ci riprecipita nel Far West, perché il principio delle guerre fatte con i droni e degli omicidi mirati, di cui parlo nel libro, è un principio di esecuzioni senza processo. Io sono arrivata a 38 anni credendo che un equo processo sia proprio uno dei fondamenti del nostro diritto. È una cosa che ti fa sentire sicura, sapere che non puoi essere ucciso senza processo perché sei sospettato di qualcosa. E gli omicidi mirati invece hanno completamente fatto saltare questa idea, tant'è che si uccide senza processo. Noi non ci pensiamo a questo, Cecilia, perché da noi queste cose non succedono, il processo esiste, nessuno ti uccide con un drone dall'alto, però siamo spesso distratti, disinteressati, quasi a cercare di capire quando queste cose accadono. Pensiamo all'attentato in Egitto di 2 giorni fa. Se fosse accaduta una cosa del genere in Europa, naturalmente drammatica come è accaduta lì, saremmo stati ore, giorni, forse a parlarne. Però io dal tuo libro quello che capisco è che invece quello che succede in questi paesi, in Iraq, in Afghanistan, in Egitto, in Yemen, sono cose che ci riguardano moltissimo, che ricadono, tornano su di noi, perché, e questo tu lo dici chiaramente a un certo punto, no, nel libro, come si fa a stupirci alla fine quando per esempio in Iraq 4.000 vittime della coalizione internazionale, 3.000 vittime degli eserciti della coalizione, decine di migliaia di vittime civili, feriti, armi, un potere distrutto, uno Stato che non esiste più, come facciamo a stupirci che poi di lì sia partito il Daesh, l'ISIS? È tutto collegato. È assolutamente tutto collegato. E quindi pensare di continuare a portare avanti politiche di guerra per quella parolina lì che avete citato prima, no? Per garantirci la sicurezza, un mondo più sicuro. Ragazzi, chi è che non vuole un mondo più sicuro? Ma tutti quanti vogliamo un mondo più sicuro. Se lo chiede ai cittadini del mondo, alla fine ti dicono tutti la stessa cosa, dall'impiegato di Milano al pastore afgano, ti dicono voglio sapere che i miei figli avranno un lavoro, che sopravviveranno a me. Voglio sapere che ho una vecchiaia dignitosa, che se stanno male i miei figli posso portarli in un ospedale dove farsi curare. Questa roba qua è la sicurezza. Però esattamente invece dopo 15 anni di guerra per portarci la sicurezza, qual è il risultato? Che siamo tutti più terrorizzati di come eravamo tutti. Esattamente, infatti è per questo il discorso molto giusto che fai nell'introduzione, che è quasi un manifesto, è esattamente questo fatto di riprendersi la parola, perché da un lato tutti hanno delle risposte, tutti vogliono essere sicuri, però come dici tu, la macchina della guerra ha uno straordinario ufficio marketing e quindi riesce a trasformare questo bisogno di sicurezza in un bisogno di più guerra, e questo è una follia. Che non ha funzionato, esatto, perché altrimenti esatto. Non avremmo avuto il Bataclan pieno di sangue e non saremo tutti più terrorizzati. A proposito, esatto, però, con meno di... libertà, con meno diritti, con meno e con più paura. E anche ci sono più morti paura. E più feriti. Ogni anno ci sono più morti e più feriti dell'anno precedente. Questo forse tu lo dici nell'introduzione ed è importante ricordarselo, perché sennò pensiamo che stiamo andando verso un mondo migliore. Però è talmente forte questa retorica della guerra che c'è dentro ognuno di noi. Tu citi a un certo punto un dialogo con un tuo amico e collega a Kabul, credo, lui dice a un certo punto: però questa cosa noi vediamo nei film la guerra, no? Vediamo nei film i feriti, come con una aurea di eroismo, di romanticismo, no? Invece la guerra è una cosa sporchissima, tu citi tutto quello che hai visto, i feriti civili, bambini con mani che sono saltate per le mine, persone che non torneranno mai più a una vita normale. Eppure questa idea di romanticismo rimane, resta, perché la guerra è l'unico racconto di come il mondo è evoluto, no? Forse nei secoli, se vogliamo fare un'analisi anche storica o semi-filosofica. Come... Ma questo lo trovo vero, sai, credo che ci sia in effetti un problema di come viene raccontata la storia del mondo. Se ci fate caso, quando siamo a scuola studiamo la storia per una successione di guerre, non studiamo mai la storia della pace. E anche quando si... è difficile uscire dal sangue nella storiografia, e invece sarebbe importante cominciare a raccontare invece di non solo di chi ha fatto la pace anche durante la guerra, ma di chi ha usato strumenti non violenti per raggiungere l'obiettivo, che è di vincere. Spesso c'è questo equivoco, tra l'altro la guerra viene sempre raccontata come una cosa attiva, aggressiva e in qualche modo molto eccitante, molto attiva. La pace, se viene definita così la guerra, la pace diventa una cosa passiva, per niente affascinante e tutto sommato che non richiede, se non porgere l'altra guancia, ma non è assolutamente questo, non è vero. La non violenza non vuol dire porgo l'altra guancia, la non violenza vuol dire voglio vincere, ma senza guerra, non voglio combattere, ma voglio vincere. E la pace è una cosa che va costruita ogni giorno per evitare il riproporsi di dinamiche di guerra, non è assolutamente un concetto passivo. Però ecco, forse qui faccio autocritica, forse il marketing della pace ha qualche cosa da imparare dal marketing della guerra, perché loro si sono venduti molo molto bene. Questa me la segno, questa me la segno. Non ci siamo venduti altrettanto bene. Però anche voi invece, scusami, parlando di emergency, in realtà è forse un grosso cambio anche compiuto da voi è proprio quello di comunicare la pace, comunicare il desiderio di salvare dei bambini in un altro modo, in un modo che ha toccato il cuore di tutti noi. Ma io penso che ormai... No, non siete bravissimi anche voi? Io spero, è una speranza la mia. Migliorare. Cioè, è una speranza migliorare, la mia. Migliorare. Io voglio sempre migliorare, sì, se no mi annoierei, francamente. Se pensassi di essere brava e arrivata al massimo. Senti, però voi... io penso sicuramente che il grande forza di Emergency, quando siamo nati, quasi 25 anni fa ormai, sia stata la campagna contro le mine antiuomo, perché non ha soltanto posto un problema, ha proposto la soluzione. Non si è limitata a dire ci sono un sacco di bambini che saltano per aria, poveri loro, dacci una mano per provare a salvarli. No, ha detto è vergognoso e schifoso che nel nostro paese vengano prodotti questi strumenti di barbarie. Vuoi partecipare anche tu alla campagna internazionale per la messa al bando? Verissimo. E questo è stato finalmente è stato il grimaldello, la possibilità ai cittadini, esatto, di fare qualche cosa. Ci siamo quasi arrivati, perché anche a livello di finanziamenti indiretti alle industrie che producono le mine ci sono ormai delle leggi internazionali, e anche l'Italia ha aderito, anche se con qualche inciampo. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane. Grazie anche a questa campagna di cui stavi parlando è che ci siamo sentiti tutti per un momento un po' più potenti, che poi era stessa cosa che dici nell'introduzione del libro, appunto, di riprendersi le parole, di sapere che in realtà noi siamo più potenti, siamo anche di più. Bravi, dei cattivi. Siamo di più, siamo molti di più, e forse però ci siamo dimenticati di quel potere che abbiamo nelle mani. Vero, verissimo. Con le nostre scelte, anche banalmente, come dicevi, che non è tanto banalmente, al supermercato, anche partendo da lì. Senti, voi di Emergency siete sempre la buona notizia quando si parla di queste cose, però il contesto è un contesto drammatico, no? E allora è difficile trovare buone notizie. Noi quello che cerchiamo di fare ogni sabato e domenica mattina, e qualche giorno fa abbiamo dato la notizia dell'arresto, il primo arresto, la prima condanna, anzi, la prima condanna di uno scafista, arrestato un tunisino, credo che fosse, che è stato condannato da un giudice italiano, è stato preso e condannato. È una buona notizia secondo te questa? È la strada giusta, una delle strade per esempio per contrastare il traffico di clandestini? Sicuramente bisogna agire da un punto di vista di polizia e di intelligence per contrastare la rete di trafficanti che sono dei criminali che lucrano sulla pelle della gente. Questa sicuramente è una delle cose da fare, però non può ovviamente essere un strumento, perché il problema evidentemente è sistemico ed è molto più grosso. Magari bastasse fermare uno scafista e poi l'altro, bisogna ragionare proprio dal punto di vista sistemico, quindi corridoi umanitari, quindi regolare i flussi d'ingresso, dare la possibilità di canali d'accesso sicuri e legali per entrare in Europa, se no continueremo a cercare di svuotare il mare con un cucchiaino. Il problema è che nel mare muoiono persone continuamente. A proposito, che ne stiamo parlando, l'idea di rimandare, l'idea di avere accordi di pagare, di nuovo torniamo a noi contribuenti italiani. A me l'idea che stiamo pagando la Libia per riprendersi gente che dalla Libia e che in Libia è stata torturata e sì, soprattutto è riuscita a un certo punto a scappare, li rimandiamo indietro verso altri lager e torture, è una cosa che veramente... Esatto, pagarli per torturarli mi sembra veramente troppo. Mi sembra proprio troppo. Hai visto la puntata, non so se hai visto la puntata di Report di questa settimana, che ha riaperto, ha toccato con una inchiesta il tema del ruolo delle ONG. Si sono viste immagini che in parte erano già state viste, il coinvolgimento, la vicinanza, il saluto, le barche non bruciate come invece si dovrebbe forse fare, il fatto che per esempio anche il particolare dei salvagente che anziché essere buttati vengono rimessi sulla barca, sembra quasi che ci sia, ecco, nessuno ha mai messo in buona fede, credo nessuno, il ruolo delle ONG nel voler salvare vite, ma il sospetto, il dubbio, no? Anche in buona fede, di fare gli interessi, di servire in qualche modo agli interessi di quel sistema che dicevi tu prima di trafficanti, è inquietante o no? Nello specifico della puntata di Report non voglio entrare perché non l'ho vista, ho sentito diversi amici che però mi hanno fatto notare diversi punti che vorrò approfondire prima di farmi un'idea su quella puntata. Signori, il sospetto è, ma direi è lecito, così come è lecito chiedere trasparenza e così come è doveroso che se qualcuno ha commesso degli atti criminali paghi come chiunque, perché non è che se lavori per una ONG sei esente dal dover rispettare le regole, questo in generale nella vita. Dopodiché stiamo parlando di gente che è in mezzo al mare a salvare vite umane, questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Molto semplicemente i governi hanno paura che le ONG siano parte di un sistema criminale, eccetera. Benissimo, mandino avanti le loro navi, perché il problema è questo. Perché fin tanto che invece i governi non mandano avanti le loro navi per supplire al lavoro che stanno facendo oggi le ONG, che è salvare vite umane, la gente continuerà a morire. Per cui fino a che qualcun altro non li tira su dal mare... E continueranno giustamente a farlo loro, a lamentarsi del fatto che lo stiano facendo le ONG, e... mi sembra veramente che stiamo guardando il dito e non le sette lune. Sì, esatto, cioè star lì a dire sì, però quello lì non l'avete tirato su nel modo proprio corretto, ma vai tu allora, nel senso che siamo obbligati ad andare noi. Mandiamo avanti le navi della Marina, a posto, esatto. Ripristina come era una volta. Se invece oggi ci sono solo loro, ci sono solo loro, e io francamente mi tirerei giù il cappello davanti a chi sta salvando la gente dal mare, poi parliamo, ma intanto salviamoli. Senti, ti devo fare una domanda che non so, perché quando si legge, come diceva prima Alessio, quando si legge di Emergency è sempre un po' la parte buona. Se uno vede guerra, poi vede un articolo su Emergency, si dice vado a leggermi questa cosa. Che cosa sta succedendo all'interno di Emergency? La questione che tu non sei più presidente, qualcuno che dice che tu sei più idealista e invece c'è una corrente che vuole accettare i soldi dei governi e i soldi... lascio a te parlare, perché sennò magari dico delle cose sbagliate. No, no, perdonami. Ragazzi, se ne dicono tante. Esatto, esatto. La verità è che com'è che si dice l'espressione italiana è succede in tutte le migliori famiglie, ecco, sì. Succede in ogni realtà organizzativa. Ma noi vogliamo molto bene alla vostra famiglia, quindi sai, ci teniamo. Pure io, però meno male che succede a volte di non essere d'accordo. Sapete, io ho paura quando siamo tutti d'accordo, a me sono paura Giusto. Quelli che non hanno mai dubbi. Giustissimo. Io sono una che vive di dubbio e trovarsi a volte a non pensare esattamente nello stesso modo è normale e anche cambiare, anzi il cambiamento secondo me è sempre una cosa positiva. Ma quindi quali sono queste per eludere le domande? Esatto, sei bravissimo. Complimenti, Cecilia, state riuscita. E peraltro io sono il non giornalista, quindi sono in estrema difficoltà, non so come uscirne. Abbiamo capito che ci sono state delle discussioni, come normale, giusto che ci siano. Diciamo il punto di ricaduta, no, di queste discussioni è un punto nel quale tu ti ritrovi o hai qualche difficoltà a ritrovarti oggi dentro questa realtà nella quale sei cresciuta grazie a tuo padre che l'ha fondata. Vabbè. Questo l'ho detto per scherzare. Io, come avete detto all'inizio, sono nel consiglio direttivo di Emergency, sto continuando a fare la mia parte in modo ovviamente diverso da prima. Sì. Sto lavorando anche a una serie di altri progetti, perché io poi, come avete visto, anche a me piace raccontare. Io non so fotografare, quindi scrivo e mi piace scrivere, provare a fotografare con la penna. Quindi mi sono questo libro ti è venuto benissimo. Problema. Ho lo stesso problema, quindi vai avanti, Cecilia Strada, capisco. Questo quindi, libro ti è venuto bene, quindi vai avanti. No, grazie. Quindi diciamo occuparmi sempre più di quel tipo di cultura di pace lì, no? Quel tipo di cultura con cui Emergency è nata, per cui certo che mi ritrovo, perché noi nel 94 ci siamo detti noi vogliamo diventare inutili, non vogliamo curare sempre più persone a tempo indefinito, vogliamo chiuderli questi ospedali per vittime di guerra, vogliamo diventare inutili e per questo dobbiamo fare cultura. Io andrò a occuparmi sempre più di questo con una serie di nuovi progetti di cui appena sarò pronta quindi parlerò. Ma non voleranno piatti? Non voleranno piatti sono il giorno di Natale fra te e Gino? Sono già volati i piatti, sono già volati, adesso si rimette tutto a posto. Dici se voleranno piatti. Non voleranno piatti. Sono non violenta, ho passato 12 minuti a dirvi che sono non violenta. Cioè, se possono volare. Ma ci sono i piatti di carta, insomma. Voglio ricordarlo. Però inquinano. Voglio ricordarlo questo libro, La guerra tra noi, Cecilia Strada. Sono andata lontano per capire quello che succede qui. Ed è un libro che veramente vi consiglio, perché in sole sto andando a guardare quante pagine sono. 172-73, credo. Ci sono tantissime cose condensate con uno stile veloce, rapido, ma che ti colpisce nel profondo. E quindi grazie Cecilia Strada. Grazie mille. Grazie in bocca al lupo, in bocca al lupo soprattutto anche per Emergency. Leggo solamente una frase brevissima dell'introduzione che ho amato molto, di una donna peruviana che parlando con Cecilia le dice: non capisci che sugli stranieri si fanno le prove generali, ma prima o poi toccherà anche agli italiani? Mi sembra molto importante, soprattutto quando guardiamo questi stranieri e li maltrattiamo e li vediamo solamente come un problema. Allora restate con noi, perché oltre a cercare un personaggio della settimana che è inossidabile, che in realtà è un personaggio plurimo perché sono due, 800 24 00 24, oltre ad aspettare le vostre telefonate come controllori dei fatti sugli insegnanti di sostegno per ragazzi disabili nelle scuole italiane, tra poco avremo un'intervista importante con il presidente dell'AMA, quella che è occupata di raccogliere rifiuti a Roma, e quindi ci sono delle notizie importanti da dare su questo fronte che, come sapete, a noi ci sta parecchio a cuore. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo dritti verso gli ascoltatori. All'800 24 00 24 c'è chi ha amato ed è in collegamento Angela da Vicenza. Vai Angela. Sì. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Niente, io avevo per il personaggio, sì, inossidabile, la coppia. Pensavo sì. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Sì, che dov'è l'inossidabilità? Capiamo. Ah no, io è perché ne ho sentito tanto parlare sui giornali, in TV, tutto. Inossidabili, ma noi non ne abbiamo sentito tanto, aspetta, quindi ce lo racconti. Ah, inossidabili sono i loro parenti più famosi, tipo il padre di Moser, forse, no? Loro sono inossidabili. Sì. Il ciclista. Certo. Ecco, invece Ignazio Moser, che è il figlio, giusto? Sì. Cosa, di quale notizia si è reso protagonista questa settimana? Per capire, Angela. Io ogni tanto guardo il Grande Fratello, sì, perciò... Non c'è da vergognarsene, non è un problema? No. E cosa è successo? No, tutti i fatti che Cecilia è andata fuori, adesso lui è in casa e sembra che abbia voglia di uscire e di vederla. Ah, sembra che ci siano anche delle altre notizie, ci sono giunte alla voce, le altre notizie che però forse, vista l'ora, ho visto, non lo so, la giornata... Ho visto Carmelo in regia fare dei strani gesti che non posso raccontarvi via Angela radio. Sorride, quindi evidentemente ci siamo capiti. Sì, li ho sentiti anch'io. Però mi sto emozionando, Carmelo ovviamente. Ieri Cecilia Verissimo da Silvia Toffanì ha proprio detto che non è successo assolutamente niente. Beh, se l'ha detto lei, allora. Comunque, vabbè, facciamo la corta, vedere. Angela, guarda, tagliamola qua. Non erano loro, non erano loro la coppia, no, di protagonisti. Immaginavo, infatti col marito diceva impossibile perché... Forse sono personaggi più pubblici, più... No, potevano anche essere loro, assolutamente, ma non sono loro. Suo marito l'ha messa sulla buona strada perché avrà detto questi ragazzi qua, figurati se vanno a scegliere una coppia di protagonisti. No, lui neanche li conosce, non li guarda mai, lui neanche li conosce. Però conosce noi, infatti non era questa la cosa. La ringraziamo molto di aver chiamato. Perché seguiamo sempre Radio 24. Brava, Angela, continua così. Monica da Genova, vediamo un po'. Buongiorno. Buongiorno, io ho pensato personaggio della settimana in quanto a inossidabilità, sì, sicuramente Boldi e De Sica. Osti. Sono 30 anni che fanno cinepanettoni, sono una coppia comica un po' scoppiata perché non sono più insieme nei film. Però la notizia qual è, Monica? Perché noi abbiamo bisogno... Sono alleati contro la produzione di De Laurenti, del cinepanettone di De Laurenti. Ah, questo è accaduto questa settimana? Specifichiamo. Il 22 novembre. Brava. Ah, hai controllato la notizia, vedi che Monica è preparatissima. E siamo molto contenti anche di aver ricordato questa vicenda della coppia, sì, più famosa dei cinepanettoni contro un'altra produzione, ma non era la coppia che abbiamo scelto. Mi spiace, sono quasi mortificato nel video. La ringraziamo molto di aver chiamato. Monica si era documentata bene, sì, documentata bene, però non era questa la cosa. E poi ha una bellissima voce, signora. Grazie. Ci riproviamo tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo così con un po' di immagini del recente passato. Roma sporca, Roma invasa dai topi, cassonetti stracolmi. Ma di... quando? Ma quando? Non ho visto, me ne sono accorto. Non ora. ne siamo accorti tutti, ma purtroppo. Sì, stavo scherzando. La discarica più grande d'Europa, Malagrotta, che è stracolma. Però tutto questo in parte è già passato, ma forse potrebbe diventare solo un brutto ricordo. Noi quello che speriamo, insieme a tutti i romani, la svolta però di Roma sui rifiuti parte sicuramente, questo sia stato annunciato dal famigerato municipio, decimo municipio di Ostia, del quale si è parlato tanto per tante ragioni diverse da questa. Noi abbiamo il piacere, ultimo le elezioni, esatto, di avere con noi il presidente amministratore delegato di Ama Roma, Lorenzo Bagnacani. Buongiorno e benvenuto. buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno ai radiospettatori, grazie dell'invito. Allora, per partire da questa notizia che le chiediamo di spiegarci, di raccontarci, parte il porta a porta, la raccolta differenziata porta a porta, che come sappiamo è uno dei passi fondamentali, anche se non l'unico probabilmente, ma è forse il primo da compiere per ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti e portati in discarica o altrove, ed è questo il problema attualmente di Roma. Roma che ha appena adottato il modello zero rifiuti, c'è stato un grande incontro, la stretta di mano tra Rossano Ercolini e Virginia Raggi. Presidente Bagnacani, ci spiega questa notizia? Sì, questo, il decimo municipio rappresenta il primo passo che noi facciamo per attuare un nuovo modello di gestione, di raccolta dei rifiuti col sistema domiciliare porta a porta, un modello nuovo che cambia le regole del gioco, un modello che saprà dare un servizio chiaro, semplice per i cittadini che devono collaborare a questo progetto, un servizio che rivedrà una rimodulazione completa dal punto di vista industriale, perché le parole d'ordine sono efficienza ed efficacia. Dobbiamo organizzarci in modo diverso rispetto al passato, in modo tale da non sprecare risorse, in modo tale da essere nelle condizioni di offrire un servizio di qualità e di poter garantire questo servizio di qualità. Queste sono le parole d'ordine. Ma come mai non è stato fatto prima? Così chiedo. Guardi, la mia idea è questa, anzi il mio messaggio è questo. Lui però, devo dire, è appena arrivato, Bagnacani, diciamo, è appena arrivata all'AMA, quindi ma la risposta può anche essere questa, può anche essere che il merito... sono appena arrivato, ma l'ho analizzato attentamente, naturalmente, e questi progetti sono anche il frutto di un'analisi, di una progettualità futura. Perché non è mai stato fatto? Perché non funzionava così? Do una risposta molto semplice. Le aziende devono avere una propria struttura industriale, devono ragionare in logica industriale. Il management dell'azienda deve saper costruire processi efficaci ed efficienti in grado di essere sostenibili dal punto di vista economico e di poter erogare, visto che parliamo di servizi pubblici locali, di servizi di qualità. Se io guardo progetti che sono stati proposti nel passato, erano non la risultanza prima di tutto di un progetto industriale, ma erano la risultanza di quello che era un desiderata politica. Quindi c'era necessità di fare raccolte differenziate anche porta a porta. Dalla sera alla mattina venivano proposte dei modelli. E come venivano fatti, ad esempio? Venivano fatti spostando il personale dai servizi di pulizia e spazzatura delle strade, quindi il servizio di spazzamento, portati sulle raccolte porta a porta, che impiega più personale. Ma questo significava scoprire una parte dell'azienda in favore di un'altra parte dell'azienda. E quindi voi lo farete in un altro modo. Questo, diciamo, riguarda un po' anche come lei cercherà di riorganizzare giustamente questa grandissima azienda che ha bisogno di essere rilanciata assolutamente. Le faccio due o tre domande veloci per avere qualche risposta flash utile per capire. Oggi Roma parte da che livello di raccolta differenziata, da cui vogliamo distaccarci? Oggi parte... Noi ci attesteremo a fine di quest'anno al 45% di raccolta differenziata, e adesso do una informazione che potrà sembrare strana. A livello di capitali europee abbiamo un primato, perché se noi guardiamo Parigi siamo sì e no al 20%, Londra siamo sì e no poco oltre il 30%, Berlino non raggiungiamo il 40%. Beh, però un momento, voi non siete ancora al 45% però. Noi siamo già al 45%, siamo al 44,6,7%, se diamo la proiezione a dicembre dovremmo riuscire ad arrivare al 45%. Però ascolti, è un po' difficile immaginare che Roma sia messa meglio di Parigi, Londra, cioè nel senso che anche gli occhi però vogliono la loro parte, diciamo. Allora, oltre ai numeri, sono due temi in termini di percentuale di raccolta differenziata. Questo è il dato certificato da enti terzi, e quindi noi siamo al 45%, le altre capitali europee sono più basse. Se poi guardiamo all'interno del nostro paese, invece spicca Milano, che ha una percentuale di raccolta. Probabilmente, Presidente, c'è un dato di produzione, no, di un quantitativo di rifiuti che è ancora molto alto, e poi c'era una difficoltà oggettiva a gestire l'indifferenziato, ma anche il differenziato, perché sappiamo che differenziare non basta. Io infatti le chiedo, intanto, qual è l'obiettivo di raccolta differenziata dell'anno prossimo che volete raggiungere a Roma? quest'altro anno ci vogliamo attestare al 50% di raccolta differenziata. Questo vuol dire che se noi oggi siamo al 45%, prossimamente saremo al 45%, a fine anno prossimo siamo al 50%, vuol dire che dobbiamo raggiungere delle performance almeno del 55%. Questa è la ragione per cui stiamo adottando dei progetti che abbiano sostenibilità industriale e praticabilità per gli utenti. L'altra cosa che le chiedo, gli impianti necessari per il trattamento dei rifiuti, no, per renderli adatti al mercato delle varie materie della raccolta differenziata, sono sufficienti ad oggi? No, tutti sappiamo che non sono sufficienti e qui ci paghiamo lo scotto della mancata programmazione del passato. Gli impianti non si inventano dalla sera alla mattina e se guardiamo la dotazione di impianti della città di Roma, devo dire anche con debolezza nel Lazio intero. Ecco, ma quindi scusi, come interverrete per renderli adatti? Su quali impianti? Noi abbiamo un piano industriale da qui al 2021 che prevede appunto la creazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, impianti in particolare per la gestione della frazione umida, perché l'incremento delle raccolte differenziate farà crescere in modo molto significativo la quantità di rifiuto umido da trattare. Ma ci sono impianti nuovi che devono aprire o impianti che verranno trasformati? Sono impianti che stiamo progettando e che realizzeremo nell'arco piano del piano industriale da quindi 2021. Nuovi. Quanti? Ma il quanti? Primo impianto, visto questa situazione... Nuovi impianti però a Bagnacani, per darci l'idea, quanti? Faremo 3 impianti sicuramente che sono già previsti al piano industriale. Con il mio gruppo dirigente stiamo valutando l'integrazione del nostro piano industriale per renderci ancora più forti. Perfetto. Da 2021. Un'ultima cosa che le devo chiedere, Flash. Galletti dice però che non è del tutto credibile questo piano, che i rifiuti devono essere ancora esportati fuori Roma, fuori regione, no? Non crede molto forse in questo piano di raccolta differenziata. Cosa risponde? Di raccolta differenziata innanzitutto è in linea con quelle che sono le normative europee, che la gestione dei rifiuti la facciamo secondo legge e laddove non ci sono impiantistiche regionali adeguate, sufficienti per trattare i rifiuti, è chiaro che i rifiuti possono secondo legge andare oltre regione e quindi il vero tema deve coinvolgere tutti gli attori. Convincerete Galletti? Ma convinceremo Galletti e convinceremo la regione. Il vero tema è che questa mancata programmazione del passato paga oggi questo scotto che tutti commentano. In bocca al lupo Bagnacani, in bocca al lupo, dobbiamo chiudere. Io la ringrazio, presidente di AMA, per essere stato con noi. Abbiamo i secondi per dare una risposta. Beatrice da Perugia. Beatrice, salve. Vai. Buongiorno. Velocissima, vai Beatrice. Allora, credo che siano i reali d'Inghilterra, la regina Elisabetta e il suo marito, il principe consorte Filippo di Edimburgo. Era la nostra coppia inossidabile, abbiamo tenuto in chiusura perché avevamo l'impegno.